Stefano, ti hanno chiamato la zanzara, ti sei divertito? Ho mandato a fare in culo anche loro ieri sera, sì, giusto. Ti ho perso, com'è andata Pino? Raccontacelo un po', dai. Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno, non ho capito chi era, che sparava cazzate a manetta. Mica l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva, tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Se dovessimo avere 100 positivi, si mette in quarantena tutta la città di Mondragone. Chiaro? Questa situazione di Mondragone sta qui da anni e anni, e non se ne è accorto nessuno. Ministri degli interni, prefetti, questori, sindaci, non se ne è accorto nessuno. È meraviglioso, meraviglioso. Vittorio Feltri si dimette da giornalista, è la notiziona scoop che c'ha oggi Sallusti, perché pare che si sia dimesso Vittorio Feltri dall'ordine dei giornalisti perché si è rotto le scatole del soviet dell'ordine dei giornalisti. Ha fatto benissimo, dice Sallusti, perché non ce la si fa più. Cosa? Beh, l'ultima puntata, sono un po' cotto. Va bene. No, ti vedo pimpante però. Eh sì, perché sai... Ma non sei un po' triste nell'abbandonare questo pubblico meraviglioso, no? Soprattutto di non vedere te tutte le settimane. Questo è vero, Giuseppe, questo è sì, vero. Sì, sì, sì. Ma magari troviamo un modo lo stesso. Ma sì, però non interessa ai telespettatori, diciamo. Vabbè, teniamocelo. Lo per... stato del nostro rapporto. Lo stato del nostro rapporto, esatto. Forse dovremmo avere in video collegamento il professor Meluzzi. Noi. Oggi come sei? Oggi come sei vestito? Che hai? Che hai? La tuta? Che cosa hai oggi? No, pantaloncini oggi... corti? Come sei venuto con i pantaloncini corti? Oggi sono vestito con che cosa rigoroso... hai messo? I bikini? Che cosa col, hai messo? Rigoroso, un costume da bagno? Rigoroso calzino blu di Scozia, come sempre. Mamma con mia. Un paio di mi jeans mi hanno detto che stai stretti. Facendo esercizi fisici a più non posso in con palestra una per rimetterti camicia, in forma. Certo, con una mamma camicia mia. Di lino, con una avete ottima capito, camicia di lino avete capito, signori della 7, ha bisogno di rimettersi in forma? No, ma adesso perché il conduttore televisivo deve essere, come dire, no? E telese, telese, diciamo la sua costituency è quella invece di avere, di essere un po' più com'è che disse Fabrizio da Milano una volta, no, com'è che disse Fabrizio Milano? Telese. Hitler telese. Uscito da McDonald's. E invece pensiamo a te e a quella leccata di culo che hai fatto a quella rete che ti dà quell'argent de poche ogni settimana a Bordeaux, pagato da Rete 4. E tu che dici? Salutiamo questo splendido no, pubblico di Rete 4. Non sei triste ma di vergognati, leccaculo con leccaculo, me lo fai risentire il saluto? Cip e Chop con Del Debbio, Paolino, fammelo sentire, ecco così. Mandalo sotto. Beh, l'ultima puntata sono un po' cotto. Va un bene. Po' cotto. Ti vedo pimpante però. Ti vedo sì, pimpante. Perché sai. Ma non sei un po' triste nell'abbandonare questo pubblico triste, meraviglioso, no? Soprattutto di non vedere te tutte le settimane. Questo pubblico meraviglioso. Sì. Ma magari troviamo un modo. Sì, però non interessa ai telespettatori, diciamo. Vabbè, teniamocelo. Lo stato del nostro rapporto. Esatto. Ma scusami, e quindi il bonifico quando me lo fa Rete 4 per tutte queste mie comparsate? contro Rom, Zingari, ma Negri e la sinistra. Mamma questo mia, splendido pubblico di Rete 4. Cosa? Cosa? Questo veramente... splendido pubblico di cosa? Io splendido, non l'ho cosa? Detto, cioè, ho detto splendido. Forza, sì, sentiamolo, risentiamolo. Vabbè, per no, piacere. Non risenti, questo basta. Fa il palio. L'ultima puntata, sono sì, un po' aspetta, cotto. Che... Va bene, ma ti vedo pimpante, però. Aspetta, sì, aspetta. Perché sai. Ma non, non sei un po' triste nell'abbandonare questo pubblico meraviglioso, no? Soprattutto di non vedere il tempo. Questo lecca culo di Rete 4! Pubblico meraviglioso, ma vi rendete conto? Questo signore qui è a contratto con i signori della 7. Ma questo certo, quello che sta parlando è a contratto con i signori della 7. Quando mettete questa è a contratto, musica, a contratto, pagato da Cairo, pagato da Cairo. Sì, non è Totorrina, dici, non è, no, ma per carità di Dio, anzi, dai, senti, allora, ragazzi, se continuate sì, a mettere questo to, io mi querelo. Intanto Porro contro De Luca per la vicenda di Mondragone. Partiamo no, subito Porro così. Che dice che ha fatto bene Feltri a cancellarsi dall'ordine. Beh, ragazzi, adesso ne uscisse parleremo. Anche lui. Adesso ne parleremo. Uscisse anche adesso lui. Ne parleremo. Uscisse anche ma lui. Che c'entra? Uscisse c'entra? Anche lui. Ma che uscisse. C'entra? Poi ne parleremo, uscisse. Aspetta, ne parleremo. No, non ce la fai, chiudiamola qua. Uscisse Porro, anche lui. Porro su Mondragone e De Luca, senti. Intanto De Luca, il governatore, quello del lanciafiamme, i lombardi se vengono da me con lanciafiamme, che cosa ha fatto? Zero, si è cagato sotto, non si è neanche presentato lì. C'è l'esercito che si prende, De Luca, quello che parla bene all'Ira TV, quello che non accetta confronti con nessuno, sta lì dai bulgari? No. Il lanciafiamme dove l'ha rimesso? Nel cassetto, ha rimesso il lanciafiamme nel cassetto, perché vale solo per i lombardi che arrivano in campagna. C'è da precisare al signor Porro che il lanciafiamme non è mai stato dedicato ai lombardi, così per amor di precisione, per carità, ma il governatore del mondo ha sempre dedicato il lanciafiamme a quelli che volevano fare le feste di laurea, se non sbaglio, le feste di laurea. Comunque fermo ogni caso è vero. Mi scrive, un mio amico banchiere e mi dice, poi amico banchiere che mi manda una sempre foto. Gli amici banchieri, sì. Mai camionisti, camerieri, tassisti, mai. Il mio amico camionisti, avete sentito? Ma un amico c'è? Banchiere. È questa la sinistra moderna. È questa la sinistra moderna. Si chiama Francesco, non dirò il cognome. Pappe ciccia con banchieri, finanzieri, uomini d'affari. Dove sono i quattrini? Chiusa parentesi. Paragone ormai, cosa sei? Molto meglio paragone del tuo amico banchiere, allora, sicuramente, dimmi. Cosa? Dimmi, dai. Cosa? Dai. Esatto. Puoi chiedere a Cruciani le frequenze sì. In costiera amalfitana di Radio 24? Sto rientrando nella mia residenza estiva dopo una giornata ecco, di mare benissimo. E volevo sollazzarmi con questo vostro programma. Benissimo, allora, puoi dire al tuo amico banchiere che purtroppo, che è molto meglio andare sul podcast. Andasse sul podcast no, perché tanto non c'è un cazzo. Che cazzo no. Ne so, vai, costiera amalfitana, frequenza Radio 24. Facesse Google, lei in macchina, facesse Google, frequenza Radio 24, costiera amalfitana. Che, oppure sentisse il podcast che è molto meglio, dai. Porro sulle dimissioni di Feltri da giornalista. Allora, Feltri si è dimesso da giornalista. Grande mossa del direttorissimo. Che lo mette diciamo. In culo. Ma che lo mette in culo. Beh, anche sti dimettiti. Cazzi. Non dimettiti è più giornalista. Tu. Lo dimettiti. Mette in culo. No, lo mette ma in culo. Se avessi i suoi stessi procedimenti per essere radiato, sospeso, eccetera, eccetera, lo ma farei. Dimettiti. Lo farei tranquillamente. Dimettiti. Ma non ho 77 anni. Non ho 77 allora anni. Allora ti fa comodo mantenerti dentro l'ordine dei giornali. Ma ti fa comodo. Comunque, si è dimesso. Ci credi o si non ci credi? Io credo nell'ordine dei giornalisti. Mettendolo nel culo a quelli che lo vogliono radiare. In questo dimettiti modo non lo possono tu. Radiare. Dimettiti, a me nessuno anche vuole radiare tu. Fino alla fine male, contraria. Dovrebbero radiarti per quello che fai ogni sera. Dimettiti anche tu. Dimettiti ora, subito. Ma figuriamoci. Vittorio Feltri si dimette da giornalista. È la notizia scoop che c'ha oggi Sallusti. Vabbè, perché pare che si sia dimesso Vittorio Feltri all'ordine dei giornalisti perché si è rotto le scatole del soviet dell'ordine dei giornalisti. Ha fatto benissimo, dice Sallusti, perché non ce la si fa più. Io ragazzi non ce la faccio più con questi dell'OMS. Adesso c'è un tizio che si chiama Guerra. Poi certo. Uno che si chiama Guerra sta all'OMS. Ranieri, no, due cognomi. Guerra. Ma perché uno si chiama Guerra? Uno che si chiama Guerra non dovrebbe stare all'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Beh, uno che si chiama Guerra. Fanno la guerra, si chiama virus, Guerra. È giustissimo. Ma no, la guerra. Comunque, a prescindere dal cognome, questo Guerra dice come la spagnola. giù in estate e poi ci sarà una ripresa feroce a settembre. Ma che attento. Cazzo sei? Come ma chi te l'ha detto? Stai hai sbagliato attento, tutto fino dire, adesso. Se dovesse hai sbagliato se a tutto. Dovesse l'OMS ha sbagliato. Ascoltatori, prendetevela con quel signore con gli occhiali scuri e i capelli sporchi che trasmette da Milano. Andate tutti da lui se a settembre dovesse riprendere questo sei virus. Un menagramo. Andate da lui. Sei veramente andate un portasfiga. Un portasfiga. Sì. Mamma mia. Guarda, mi tocco veramente a carne, a pelle. Madonna. Mortacci tua. Sei veramente menagramo di un menagramo. Menagramo di un menagramo. Mamma mia, con questo guerra. E poi la ripresa sarà più feroce. Ma se avete sbagliato tutto, dovrebbero chiudere l'OMS. Gente stipendiata con milioni di euro, milioni magari no, centinaia di migliaia di euro per sbagliare tutto. Io sono avvelenato con l'OMS dopo quello che è successo. Non è un talk show con gente che dice una cosa, gente che ne dice un'altra, un giorno una cosa, un giorno un'altra. Ma che roba è l'OMS? Va chiusa, giù la Claire, giù la Claire. Comunque ragazzi, non si può dire più un cazzo. Sentite per che cosa è stato accusato il signor Cremonini, il cantante Cremonini. È andato dal programma di Cattelan, all'interno del programma di Cattelan, e ha detto una cosa, una battuta, una roba sulla sua golf. Sulla sua golf. Siccome la paga, la chiama come vuole. Ma ragazzi, è incredibile. Cioè, poi il web è no, incredibile. No, quella era chiaramente una battuta. Ma, ah, perché la dice Cremonini, naturalmente. L'avesse detto sì, qualcun certo. altro, naturalmente, certo. per te sarebbe stata una cosa sessista. Certo. Sarebbe stata una cosa il così. Contesto. A te non hanno mai insegnato a scuola che ma il contesto è determinante. No, il non contesto è determinante. Le parole sono quelle che si dicono. No, punto. Il contesto non è determinante. Non c'è contesto e non contesto. Non rompere i coglioni, dai. Sono diventati Cremonini e Morelli. Due persone che nelle ultime ore vengono attaccate per minchiate, per cose anche op. In questo caso uno scherzo, sentiamo il signor quanto Cremonini, ti hanno pagato per quell'articolo a difesa di Morelli sul ma io sul l'ho Libero. Fatto di mia sponte. Quanti ti hanno, pagato quello che mi pagano? Che quanto c'entra? Ti ha dillo qui quanto scrivi una ti cosa hanno non ti pagano? Quando scrivi dico, una cosa non ti pagano? Quanto ti hanno pagato? Ma non mi ricordo, mille, ammettilo, quanto ti hanno pagato? 1.000 euro per scrivere. Avete sentito? Lui lavora 10 minuti e guadagna 1.000 euro per scrivere quelle cose su Libero. Chiamate 800 24 00 24. Ha preso 1.000 euro ma per 10 vero, minuti di battuta, lavoro. Vergogna. Io dico 1 vergogna, 2 vergogna, 3 vergogna. Ogni tanto cambia capezzone. Allenatore delle pulizie sì. Che si chiama Emilia. Ah beh, non poteva essere diversamente. Non è vero, non si chiama Emilia. Emilia, ti amo. No, lei è moldava e io ho preteso, ho preteso in onore della mia terra di chiamarla Emilia. Io voglio chiamare mia figlia Emilia. Ho capito, chiamaci tua figlia però. Non, no, non anche ci si... Ci avrà un nome sta donna. No, non adesso, so qual è il nome. Fallo per me, ti prego, puoi rispondere a Emilia, ok. Ognuno dovrebbe chiamare le no, persone. No, hai ragione, sono fatti tuoi, giusto. Cioè, soprattutto le persone che entrano in casa tua. Cioè, sì, ma sono pagate però. Vabbè. Sono pagate e possono quindi far chiamare il loro nome. Spero coi contributi. Su, dai, ma di cosa parliamo? Non ha detto niente. Uno può chiamare le persone come cazzo vuole? Cioè, può chiamarla quella Emilia anche se non si chiama Emilia? Dai, su, ma che roba è? Razzismo, eccetera. Dai. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Uno che si taglia l'orecchio è anormale, Parenzo. Mentre un coglione come te che si taglia il filetto della cappella dell'uccello è tutto normale. Parenzo va a cagare! Capezzoni. Beh, ragazzi, beh. Allora, ci sono due eroi del giorno che vi voglio presentare, caro David. Hai sentito prima? Mi sembrava Silvano sì, da Bergamo, la voce di Silvano sì, da Bergamo, non so perché. Il mitologico Silvano da Bergamo. Sì, poveretto. Ma poveretto che? Poveretto. Poveretto, cosa vuoi dire? Ma non è che puoi rispondere a ogni mentecatto che telefona beh, che lascia un audio lobo, messaggio tra tagliarsi qua. Il lobo e tagliarsi il filetto dell'uccello, poi mi devi dire che differenza c'è. In fin dei conti, poi. No, scusa, uno tu che davvero si taglia il... credi? Ma no, scusami. Però, d'accordo. Se... l'OMS la riconosce non questo vero, come è un intervento determinante, è una bufala, e che lo rende più, che rende tutto più pulito. A parte che se lo dice la messa sti grandissimi cazzi, lo rende tutto più pulito. L'80% dei maschi americani lo fa, sia per igiene, sia per igiene. Io non mi voglio far tagliare, potrò non tagliarmi il cazzo? Sarò un padrone di non tagliarmi il cazzo. Nessuno te lo chiede, sia per igiene, sia per la prestazione in fase di manovra. Ma se stai, è riconosciuto sia per l'igiene, sia per prestazione su strada. Per prestazione su strada è riconosciuto che c'hai un tagliando efficace, perché cabriolet funziona ancora meglio. Io non mi voglio circoncidere, ma nessuno te lo chiede. Dopodiché tagliarsi un orecchio è da mentecatti, mentre questo è riconosciuto dalla scienza e te lo fanno i medici. I coglioni si tagliano l'orecchio, quindi no, questo non è paragonabile le due cose. Ma è sempre una mutilazione comunque tagliarsi. Ma quale mutilazione in testa tua? Se ti tagli i capelli tu è come se ti tagliassi l'uccello. Allora, tra gli eroi del giorno c'è un tizio che si chiama Ravaglia ed è un bagnino di Riccione. 135-136 sono i bagni di Riccione. Senti un po' che cosa dice a proposito della moglie e delle sue relazioni con i clienti. Senti. Sicuramente io sono un pochettino avvilito, lo stavo dicendo precedentemente a lui. Io normalmente sa che mia moglie mi lascia un bonus di 10 scappatelle. Ah, 10 scappatelle andavo con le straniere. Sì. No, le dico che in bassa stagione facevo un paio, battezzavo un paio di straniere, due, tre. Quest'anno purtroppo le straniere non le ho battezzate, ma ci rifacciamo con le italiane che sono molto più belle, simpatiche e molto più il battesimo del romagnolo, quindi andiamo su questo. Ma questo è un eroe assoluto, anzi la moglie più che lui. La moglie, perché lui chiede evidentemente il consenso, no? Questo bagnino di Riccione ha un bonus di 10 scappatelle. Capito Parenzo? Ma tu ce l'hai il bonus? Cioè no. Tu non sei a livello del bagnino di Riccione. No, ma non mi interessa la cosa. Perché non no? Non è una contrattazione che ha fatto. Natania, se sei all'ascolto, scusami, se sei all'ascolto, vuoi concedere un bonus? Concediamo ma il bonus. No, ma perché ma non è male concedere l'idea del bonus. L'idea del bonus, se ci pensi bene, non è malvagia come idea. Cioè, cosa tu vorresti il bonus? Il bonus, tu puoi fare 5 scopate extra. Ma cosa 5? Ma non è una contrattazione. Ma andrebbe scritto nei contratti matrimoniali, nei contratti, se uno si sposa, e purtroppo succede anche questo, l'ho guarda, fatto anch'io con piacere, grande rammarico, piacere, con grande rammarico, dovrebbe non essere farmi, scritto, non farmi parlare, dovrebbe essere scritto io nei ti contratti, dico, per piacere, non fare parlare neanche per me piacere, su un matrimonio, su quello che è accaduto no, durante quello, il tuo passato matrimonio, appunto, non farmi parlare, ma no, ma il tuo passato matrimonio, intendo passati matrimoni. Allora, dovrebbe essere normale il bonus, non ho capito. Ma David, che bonus? Ma no, che scusa, bonus? Bello scrivere il bonus, straordinario scrivere. Scusa, non ho capito. Perché ma uno non potrebbe bonus? Ma è stupendo, uno scrive nel contratto al massimo, cioè 10 scopate extra l'anno, 5 l'anno, 3 all'anno, perché non è, che problema c'è? Non ho capito, cioè, non riesco a capire. Mi pare una cosa totalmente impraticabile, ma vabbè, e anche no. Chi se ne frega. Altro eroe del giorno, Elettra Lamborghini. Le piace la puzza di merda, la puzza di merda degli animali, del cavallo, se non credo, il letame, anzi no, il letame. Comunque ragazzi, sono andato a trovare le amiche vacche qua vicino, in un sentiero dove sto andando, dove vado spesso per camminare, e io stavo pensando che anche quando ero piccolina, no? La puzza di merda piace proprio tanto, cioè proprio la puzza di vacca, la puzza di cavallo, no? Non c'è niente di più bello. Voi che non siete cavallari dovreste provarli. E te adesso sono in mezzo a... Ed effettivamente se ci pensi, la puzza di letame di cavallo, di merda di cavallo, non è male, Davide, come cosa. Cioè come odore proprio, l'odore se del le piace, se le piace così. No, effettivamente la puzza della... non del cavallo, ma della cacca e della vacca è buona. Io in montagna... Del letame non è male. No, è diversa. Quella del cavallo è una cosa. Quella della mucca, che in Veneto si chiama tecnicamente sulle Dolomiti boassa, è un'altra cosa, perché fa quella crostina sopra. Io quando ero piccolo andavo in montagna. Sai quella cacca della mucca, allora, fa quella crostina sopra. Sì. E mi piaceva mettere il piede. Sì, il piede, le dita, che cosa ti mettevi? No, che le dita, il piede. Che facevi? Perché ha quella crosta sopra. Quindi sembra tutta dura quasi, no? E allora? E invece quando ci metti il piede sotto è ancora cosa. E mi divertivo da bambino, come dire, a mettere la pedula. Non vado più in vacanza da anni. Marisa dalla provincia di Cosenza, dai. Marisa dalla provincia di Cosenza, dimmi. Marilisa. Dimmi, Marilisa. Sì, ciao. Dimmi. Allora, io sono la ragazza che ti ha scritto su Messenger. Sì, non mi ricordo, mi scrivono tante, tante persone. Lo so. Mi scrivono tante persone. Dimmi. Io mi volevo riallacciare al tuo discorso. Sei mai stato a Catanzaro? Sì, beh, grande tormentone. Sei mai stato a Catanzaro? Catanzaro è sì, una delle più brutte città in circolazione, ma non c'è niente di strano. Ma Catanzaro Town. Certo che ma lo penso, ma sarò libero. Ho scoperto che i catanzaresi e i calabresi in generale sono praticamente come i napoletani. Ho letto dei messaggi di insulti e di minacce di morte. Vieni ma a Catanzaro. Ma tu non c'entri niente, sto dicendo. In generale. Ma l'ho scoperto l'altro giorno, una cosa incredibile. Cioè, esattamente ma come dai. I napoletani. Appena attacchi Napoli, Però io penso, no, ma guardi, suscettibili. Se vuoi parlare lei, parli solo no, ma lei. Suscettibili. Io suscettibili. Non è suscettibile. È purtroppo, io penso che. Che cosa? In un momento storico in cui stiamo. Mi cadono le braccia. Certo. Mi cadono le braccia. È un momento storico. Marilisa, dalla provincia di Cosenza. Ma non ti so. Possono cadere anche i coglioni, non sì, me ne posso fregare di meno. Ho Crociani. Capito, mi cadono anche i coglioni. Mi cadono i coglioni, appunto. Mi cadono anche i coglioni. Mi crescono, mi cadono. No, tu non ce li hai, per cui è diverso. Purtroppo, non li ho metaforicamente, ma li ho come donna perché li ho quadrati. Perché li vorresti avere i coglioni tu, non credo. Vabbè, vorresti avere no, coglioni. Non vorrei avere i coglioni perché li ho già troppo da donna. Comunque, ma non ce li hai? Io penso. Vabbè. Non li ho fisicamente, ma li ho metaforicamente. Ma quello bisogna vedere se c'hai i coglioni. Allora non ho capito, Marilisa. Io penso che Marilisa, Marilisa. Dunque, perché è difficile, il tuo nome lo dico bene. Vabbè, io penso che. Comunque, ogni qualvolta si parli della Calabria. Sei lento. Cioè, in sacco parli tu, cioè uno sei non può neanche intervenire. Ma io non ho attaccato la Calabria, Marilisa. Non ho attaccato la Calabria. Ho detto che Catanzaro è brutta. Ho detto semplicemente che non ha città come Firenze iconiche, città simbolo come Firenze, come Roma e come Venezia. Avete rotto i coglioni di semplificare queste cose in questo modo. No, ma li hai rotto tu i coglioni perché tu hai una rotto meravigliosa. E chi lo nega? Ma tu è una regione meravigliosa, bravo. I coglioni. Ma che vuol dire? Ma parla italiano che non si capisce, se no che vuol dire? E parla catanzarese, che cazzo me ne frega? Non sono di Catanzaro. Avete rotto i coglioni con queste robe qua. No, non ti faccio finire perché hai rotto i coglioni, perché non hai capito niente. Non ho attaccato la Calabria. Tu sei maleducata perché non hai capito un cazzo. Ho detto semplicemente che non mi piace Catanzaro come città dal punto di vista estetico, chiaro? Calabria, certo, sono stato a Catanzaro a scoprire le nefandezze che hanno fatto lì con gli esami d'avvocato. Sei stato sul lungomare Stefano Pucci. Ma cosa cazzo c'entra? Parlavo di Catanzaro e Alta. Bravissima, bravissima. Mamma mia, siete suscettibili. Peggio dei napoletani. Ma chi ha detto il contrario? Che la regione è brutta. Gli hai sputtanati. Brava, bravissima. Marilisa, hai rotto i coglioni. Non per quello che pensi tu, Cruciani. Mi hai rotto i coglioni. Mi hai rotto i coglioni perché non hai capito un cazzo. Chi se ne frega? Sempre gli altri che non capiscono. Sempre gli altri. Il segnale orario vi è offerto da Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it. La tua impresa ha bisogno di liquidità immediata. Da oggi puoi incassare in anticipo le fatture emesse in modo facile e veloce. E come? Con Incassa Subito, il servizio del gruppo Team System per piccole e micro imprese, senza costi di attivazione, 100% digitale e da oggi accessibile a condizioni sempre più competitive. E per i clienti Team System è già integrato nel gestionale. Allora è facile, lo attivo subito. Provalo subito su incassasubito.com. Team System. La Zanzara. Io mi chiamo Massimo Carminati, senti te lo sto nome. Massimo Carminati, segnalo così vai su internet e vedi chi sono io. Cosa? Ciao, sono Elena, vi ascolto sempre e adoro scaccolarmi. I love my radio. Sono Luigi da Catanzaro e anch'io cago per strada, tanto in questa merda di città non cambia un cazzo. Una cacca di più, una cacca di meno, fa lo stesso. I love my radio. La realtà è che la Zanzara non chiuderà mai, non potrà mai chiudere, perché altrimenti chiudi il popolo, chiudi la voce delle persone comuni, di quelli che lavorano veramente, non dei magistrati, dei giornalisti, dei politici, di questa gente che non fa un cazzo dalla mattina alla sera. E il pueblo unito, Hamas era vencito. David Natania da Casa Parenzo. Via! Da questo canale! Barisoni gay. Ma c'è De Luca, ragazzi? De Luca che non usa il lanciafiamme su Mondragone, ma spiega, non va direttamente lui, ma spiega che è una situazione così da anni, l'esercito, le palazzine blindate, faremo 4.000 tamponi, se 100 positivi mettiamo tutta Mondragone in quarantena, ci sono i bulgari, praticamente la comunità rom bulgara che praticamente vive nella sostanziale illegalità, sono dei braccianti. E lo scopriamo adesso, e lo scoprite adesso voi anime belle, pie, bianche, pulite, lo scoprite adesso che ci sono delle persone che nel corso dell'anno vanno a lavorare in agricoltura, vivono nelle catapecchie. E che è colpa mia? Vengono pagati in nero. E che è colpa mia? Lavorano come braccianti per degli italiani bianchi e cristiani. Bianchi e cristiani. E poi scopriamo improvvisamente che a Mondragone qualcuno incazzato tira una sedia da una finestra e vorrebbe fare la rivolta perché non ne può più, perché c'ha il Covid ed è sottopagato. Non è perché non ne può più. No, perché? Perché no? Perché vorrebbero mettere le restrizioni per il Covid, perché c'è stata una diffusione del Covid. Gente qua, e questi qua si ribellano. E questi qua, siccome sono pagati in nero e non hanno i soldi per mangiare, quando lavorano non va bene perché lavorano. Quando non lavorano sono dei ladri. Vi potete mettere d'accordo a destra su come vanno trattati questi casi? Non parlare con me, parla vi con mettete De Luca, d'accordo parla con come De Luca. No, no, lo dico governo a te, la Campania. Come vanno, De come Luca. Lo vuoi, tu e Salvini, come lo volete risolvere ma questo me ne frega, problema? Metti Salvini, vai. Entro questa sera ho chiesto l'arrivo dell'esercito, di reparti dei carabinieri e della polizia, perché queste palazzine devono essere blindate, non esce nessuno. Fra due o tre giorni, quando avremo fatto 3-4 mila tamponi alla fascia di popolazione che è intorno alle palazzine, se noi troviamo 4, 5, 10 positivi, vuol dire che la situazione è pienamente sotto controllo. Se dovessimo avere 100 positivi, si mette in quarantena tutta la città di Mondragone. Chiaro? Chiaro? Chiaro? Questa situazione di Mondragone sta qui da anni. Da anni e anni, e non se ne è accorto nessuno. Appunto. Ministri degli interni, prefetti, capito, pure presidenti di regione, sindaci, non se ne è accorto nessuno. Beh, ho capito, però non è che il presidente della regione non fa un cazzo. C'ha ragione. Ho capito, io amo il governatore del mondo. Ma c'ha ragione De Luca, però c'ha ragione. Ogni tanto quando succede qualcosa dice: beh, questo qua però se ne deve occupare il ministro degli interni. Quando risolve qualcosa l'ho risolto io. Governatore, però non è che, cioè, anche tu potevi accorgerti di questa vicenda. Per carità, ordine pubblico, altre cose, però non appunto, è che uno ordine extra... pubblico, dai, bravo, meno male. Esatto. Intanto c'è un signore, un commerciante, un titolare di un negozio che si è fatto tatuare la foto di De Luca, l'immagine di De Luca sul braccio, però. Sul braccio, senti. Ragazzi, finalmente è arrivato il giorno in cui mi farò questo tatuaggio e non andreste mai a pensare il personaggio che mi devo tatuare stasera. Vi prometto però che vi farò sconnettere, vi farò ridere e giustamente mi potrete chiamare scemo, idiota, imbecille, quello che volete voi, però io questo personaggio lo amo e me lo voglio tatuare addosso perché deve stare per sempre con me. Ragazzi, finalmente il tatuaggio è terminato, è il primo pezzo realistico che mi faccio fare, solitamente, vabbè, a me piacciono le giapponesate, tempo di pulire il tutto e vi faccio vedere. Comunque ragazzi, questo si è fatto tatuare l'immagine di De Luca sul braccio, ora io dico, è vero che io per esempio ho un dipinto con l'immagine di De Luca. Dove? A casa. Vabbè. a casa ho un dipinto in cui anche c'è l'immagine dell'Utri, ce l'hai dell'Utri, De Luca, vedi che c'è qualche attinenza anche dal punto di vista lessicale, dell'Utri, De Luca, altri personaggi eccetera, sono fissato con i ritratti. Sei una persona che non ha mai avuto gusto per nulla, neanche per l'arte ovviamente. Ho un bellissimo ritratto del governatore del mondo, con tanto di cravatta, stupendo, l'unica cosa di valore che hai, e te l'hanno regalata, un'opera di Guttuso, assolutamente, è vero, che sì, ti sì. hanno regalato. Beh, sì, e indegnamente, indegnamente, io non ho mai comprato nulla del valore di quello, credo, 10-15 mila euro, no, potrebbe valere un po' di più, non dire, secondo che, me diciamo forse 10-15 mila euro, no 10-15 mila euro il valore di quel Guttuso che ti hanno indegnamente pure regalato. Giuseppe, cioè persone regalano pure i quadri e poi fa il populista su Rete 4, amici miei, piove sul bagnato. Cioè questo signore che fa finta di difendere camionisti, di essere la parte del popolo, c'ha a casa un quadro di Guttuso che gli hanno pure regalato. Certo, questo per dire Marta Marzotto, naturalmente, stava a San Diro. Giuseppe da Salerno, vai. Ah, e 1000 euro l'articolo. È scritto in 10 minuti. Ma non minuti. È vero. Quando uno stipendio normale di una persona è tra i 900 e i 1300. Un insegnante in Italia prende 1300 euro per lavorare e insegnare i nostri figli. Lui prende 1000 euro per scrivere un articolo su Libero, per giunta. Giuseppe, dimmi. Ciao, veloce. Allora, la Zanzara non chiude. Tranquillo. Vabbè. Vai a ripartire con Parenzo, e con Gottardo. Gottardo, vedremo. La voce la devi fare insieme a Gottardo. Vabbè, allora, okay. Allora Giuseppe, dimmi. Che è un ottimo esponente del movimento del generale Pappalardo in Veneto. Giuseppe, pasto Veneto. È un attimo, aspetta che sono in macchina. E togli sto viva voce, sta auricolare. Anche togli le mani dal volante. L'ho tolto, e ora continua ad andare. Dai retta a me, continua ad andare e togli le mani dal volante. Sì, mi sono fermato, non fermarti. Togli il viva voce, telefona mentre vai e togli le mani dal volante. Non fermarti. Vai dove devi andare, continua a parlare e togli le mani dal volante. Perché vuoi che abbiamo il piacere di ascoltare quello che dici. Ero fermo, mi sono dovuto spostare che c'erano le macchine che dovevano entrare in garage. Ero fermo e sono senza viva voce. Dimmi Giuseppe, dai, dimmi. Si è offeso Parenzo perché voglio Gottardo, perché la voce è più bella di vogliono censurare il sport. Porca miseria, i videogiochi, ma visto che schifo i videogiochi, di una violenza unica. Ha ragione Giuseppe. Allora diciamo a questi, ragione, vero. A questi qua questi bravo. Politici che fanno solo propaganda, invece di censurare il porno, censurate i videogiochi. Okay. No, ha ragione. Fanno probabilmente certi videogiochi fanno più danni. Fanno più danni del porno. Ho litigato con i miei figli. A 13 anni volevano i videogiochi violentissimi. Io non ve li prendo. Alla fine, se c'è sì, però il problema fondamentale è questo: non bisogna censurare nulla. Il problema del filtro del porno che vogliono fare alcuni poveracci non passerà mai, perché tecnicamente non si può fare. Non si può fare, amico mio. Fabio da Foggia, Fabio da Foggia, vai Fabio, dimmi. Fabio, dimmi. Sì, allora volevo parlare con Parenzio. È qua, dimmi. No, Parenzio non c'è, c'è Parenzo se vuole. Forse ha sbagliato numero. Dimmi. Oh, comunque, dai, forza, dimmi. Con chi vuole parlare, scusi? Sto prendendo le città del sud, No, ma con chi vuole parlare, scusi? Con Parenzo, se sta qualcosa. Non c'è, c'è Parenzo qua, Parenzo non c'è. Con chi vuole parlare? Con te, Cornutone. Dimmi Fabio, Cornutone non lo so perché questo speriamo questo di no, non lo so. Ci sono cornuti felici anche, Fabio, non è mica detto questa. Felice. Ma io per esempio sarei io potrei essere un cornuto felice, io sono sicuramente. Ma qual è il problema? Non ho capito. Se uno è felice che cazzo non ho capito perché deve essere un'offesa essere cornuti. Ribaltiamo questa cosa qua. Perché deve essere un'offesa essere cornuti? Magari uno è. Beh, ma lo sai tu. L'importante è che non mi offendi il sud. Ma il sud non ti offende. Ma chi è il sud? Ma tu non sei rappresentante di nessuno. Cioè, tu non sei rappresentante di. No, io sono rappresentante del sud. Ma tu sei rappresentante di te stesso e manco di te stesso. Ma il capellone è rappresentante del sud. Ma tu non sei rappresentante di nessuno. Ma tu non sei rappresentante di nessuno. Sei rappresentante al limite della tua testa di qualcosa. Tu al limite sei rappresentante. Che dici tu, ma rappresento il sud, sarà una testa ma di cazzo. Quale sì, rappresenta, ma rappresento non rappresenti nessuno. Fermo un attimo. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta la Zanzara. se potete chiamare i carabinieri. Allora, io mi ero ripromesso di non chiamare più fin quando aveva quel coglione pieno d'acqua secca rossa che non ha mai lavorato in vita sua, ma me lo puoi mandare su quella nota dove sono i negri, così si prende quel cazzo di virus e si toglie dal mezzo ai coglioni? Allora, sto pagliaccio che c'è a fianco, perché non se li porta a casa sua, sti negri? Sì, io vedo molto negativo. Adesso attaccano pure Cremonini, ragazzi, ma guardate qua, la situazione sta diventando veramente grave, cioè non si può più dire nulla, non si può più dire nulla a questo cazzo di paese, ma che roba è? Cioè siamo nel 2020, invece che andare avanti si torna indietro, non sono più ammesse battute ormai, nessuno può più fare battute, nessuno può più scherzare, niente, quello è sessista, è razzista, è classista, andate a fare in culo, andate a fare in culo, viva Cremonini! Poi non è che me ne sbatta più di tanto di Cremonini, ma viva Cremonini, cazzo! Sono pronte per essere munte. Sono pronte per essere munte. Stanno qua. Allora, ragazzi, è molto chiaro quello che è successo in queste ore, in questi giorni. C'è questo attacco pazzesco, concentrico, da parte delle forze dell'Inquisizione mondiale contro chi osa dire delle cose anche ovvie. Per esempio, che le donne... come ha detto Morelli, per esempio, che le donne fanno di tutto per piacere, e se non c'è qualcuno che anche mette gli uomini, cioè, non c'è dubbio, però molto più le donne, e se le donne in modo diverso, come più le donne, se qualcuno in modo diverso, dai, mi pare molto chiaro, la femminilità è una cosa, cioè, ma fa parte della nostra, come dire, della natura. Ma non, scusa, è una... l'uomo non fa di tutto per piacere, ma certamente chi si sta pensa di piacere di mettendosi cosa, quell'orrida gelatina in testa, chi lasciandosi i capelli sporchi, sì, tu non, chi mettendosi qui degli anelli e degli di occhiali da sole, certamente, facendosi crederci la barba nonostante abbia la barba bianca e sembra Babbo Natale, cioè, voglio dire, ognuno a suo modo ha i propri stili, no, nel porsi, chi facendosi degli arbitri sartoriali e mettendosi delle camicie di lino, una donna, chi, capito? Se cioè, gli uomini non la guardano si deve preoccupare, questo ha detto. Ma c'è un'altra frase incriminata, che è quella delle bambole. A me questa cosa mi pare incredibile, cioè è un litigio con la scrittrice Murgia. Quelle delle bambole non l'ho sentita. Cioè, a un certo punto lui dice: beh, le bambole, cioè le bambine giocano con le bambole, i bambini non giocano con le bambole. La Murgia dice: beh, perché non gliele danno le bambole? Ma che cazzo beh, vuol no, dire? No, questo certo, i bambini non giocano con le bambole. Ma normalmente non giocano con le bambole, sì, mica perché siamo certo pazzi, perché è così, cioè non mica per la cultura. I miei figli giocano con le macchinine. Ma è normale, sì, certo, cioè, non, mi pare una cosa naturale, ma anche se poi ci sarà una piccola parte che gioca anche con le bambole, ma non perché noi glielo imponiamo, perché è così, è naturale. Feltri, secondo me, da bambino giocava con le bambole, ad esempio. Siccome Feltri si giocava con le bambole da bambino. Cioè, è un dato ontologico. È un dato ontologico, le bambine giocano con le bambole già agli albori, no? Quindi la radice femminile. Quindi i maschietti non giocano con le bambole. No, infatti la radice maschile. Perché non gliele diamo, magari, se gliele diamo giocano anche con le bambole. Ma, ascolta, i maschi non giocano con le bambole. Anche no, con cosa giocano i bambini maschi? Ma ascolta, tu sei qui per farmi domande cretine o vuoi farmi delle domande intelligenti? Mi scusi, io le sto dando del lei e anche lei mi dia del lei. Allora, sta parlando con una persona, non sta parlando con una bambina. Cioè, secondo la Murgia, i bambini non giocano alle bambole perché non gliele diamo. Perché non gliele diamo. Perché, ma ragazzi, vi rendete conto della follia o no? Cioè, io sono aperto a qualsiasi cosa, ai cambi di sesso. Tu a cosa giocavi da bambino, ad esempio? Ma non lo so, con i soldatini, molto col probabilmente. COVID giocavi? Ma non è cosa perché non gli... Ma perché uno dovrebbe dare una bambola a un bambino? Ma giocavi con i soldatini da piccolo o no? Cosa certo, facevi i soldatini, naturalmente. Soldatini, macchinine, che cazzo ne con sono? Ken. Mi ricordo. Cosa facevi? Ma non lo so, ma certo facevi non gioco con le bambole, che cazzo. Dà il bacino a Barbie? Che facevi? Ma facevi, ma non è normale. Io ho dei racconti di tu bambino Giuseppe, se ti davano le bambole, giocavi con le bambole, dai. Ma sì, le bambole. Se te li davano, ma non me le davano perché non è normale dare una bambola appunto a un bambino. Non è normale. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Ma che c'entra? Ma una Giuseppe madre e un padre non danno delle bambole a un bambino, sai, per puoi giocare. Anche dagliele, ma puoi ragazzi, anche dagliele. Ma sì, ma io non gliela do a mia figlia. Va non bene, ok, ma tu non gliele dai, però. No, non do il camion, non gli regalo un camioncino no, certo, a mia figlia. Non se glielo mio regalo. Figlio, scusate, sono l'unico che potresti, potresti farlo, regalagli dei militari, dei soldatini, a tua figlia dei soldatini. Ma perché? Bellissimo. Si spara con le spade laser, Star Wars, bellissimo. No, ma l'ottimo l'ottimo Longoni. L'ottimo Longoni ha ragione, l'ottimo Longoni ha ragione. È un paradosso, cioè, l'unico che questo ha si chiama Longoni, esatto. L'unico che ha competenze in materia, sono scritto che ha tre figli, tra poco quattro. Se regalassero ai miei figli maschi delle bambole, i miei figli maschi le prenderebbero con grande educazione e le farebbero frullare dal quarto piano dove stiamo. Ci sarà un motivo, no? Maschilista, misogino anche tu, Davide, fai l'uomo di sinistra, ma sei un falso, sei un ipocrita. Maschilismo, misoginia, stai insegnando il patriarcato ai tuoi figli. Vergognati. Questo è impazzito. Ma cos'è? La rivolta dei gracchi? Cos'è la rivolta degli schiavi? Questa, come direbbe, come schiavi? Siete che collabora la trasmissione. Ma che cos'è questa? La rivolta degli schiavi? No, la cosa dei poligrafici. La risposta della Murgia è perché non gliele, cioè, forse non giocano le bambole perché non gliele diamo. Ma perché uno dovrebbe dare la bambola a un bambino? Me lo volete spiegare perché uno dovrebbe dare? Cos'è mezzanotte scocca? Jay da Torino, vai. Mezzanotte scocca? Dimmi, Jay. Mi scrivono, fatti raccontare di mezzanotte scocca. Cos'è? Non lo so. Jay da Torino, mezzanotte scocca, non lo so. Okay. La onda del piacere, Jay da Torino. È il signor Trucco che scrive, suggerisce questo. D'accordo, io parlo. Dimmi, Jay. Ok, io sono Jay da Torino, come ogni buon torinese che si rispetti, sono un terrone. Saluto Parenzo. Ma non mi interessa, i saluti non ci interessano. Ho capito, non mi fare girare i coglioni. Cruciani, allora. Posso parlare con te? O tu hai puoi ancora parlare. La lingua attaccata al culo di Sgarbi? Io la lingua attaccata al culo di Sgarbi ce l'ho sempre, per cui è inutile che scegli un momento, solo che non funziona, dai che non funziona, perché non funziona. Ha detto delle cose perfette, spara una cazzata, ma guarda, la maviola alla zanzara, ti posso mettere in onda un litigio mio con Sgarbi di qualche mese fa, per finta tempo fa, non si può essere d'accordo con Sgarbi, è un crimine, adesso hai due del cuore alla quale non riesci mai a resistere, sono Sgarbi e Porro. Che se loro facessero un profumo con le loro scoregge, tu faresti il testimonial. Le parfum, bella cosa, le parfum, quella vuole fare il profumo, non so che cosa, le candele al sapore di vagina, la Gwyneth Paltrow, si potrebbe fare un profumo al sapore delle tue scoregge, non so cosa verrebbe fuori. Poi lo difendi in questa cosa che è chiaramente indifendibile. Qual è indifendibile? Lui che spara a zero sulla Carfagna quando è dello suo stesso partito. Ma se non ci fosse, chi se ne frega, se non ci fosse questa roba qui, Sgarbi portato via di peso dalla camera, parleremmo di cose utili, ma raga, invece di queste cazzate. Ma ce ne sbattiamo i coglioni, ci vuole anche l'arte, ci vuole anche l'arte, parlasse d'arte, anche in queste cose qui ci vuole, a parte che ha parlato di cose serissime come i magistrati e la mafia dei magistrati, ha parlato di cose serissime, lui parla di mafia? Certo, quello perché che gli hanno sciolto il comune per mafia e lui parla di mafia. Guarda che te lo scateno contro, guarda che te lo scateno contro. Chi vuoi? Te lo scateno contro, Hanno sciolto il comune per mafia su queste cose qui. Queste cose qui, Jay, non perdona Sgarbi. Comune sciolto per mafia. Che cazzo vuol dire? Perché pensi che sia un mafioso, Sgarbi? Non ho capito. E allora cosa dici? Perché la sentenza non lo dice. Io dico loro che gli hanno sciolto il comune per mafia, è vero o no? Ma sì, certo. Verissimo. E allora che vuol dire? Che è mafioso? Vuol dire che è mafioso? Si deve vergognare di questo, non andare in giro ancora ad attaccare a destra a manca, perché se non la spara grossa non lo caga. Vabbè, pensi che sia un deficiente, pensi che sia uno spaccone, pensi come Michele Serra che sia un narciso, ridicolo, è un mostro costruito dai media, sia ridicolo, a te non piace. A me piace, cazzi miei e cazzi tuoi, ciao Jay, ciao. La Zanzara. Allora, abbiamo con noi il grande mostro, l'uomo accusato delle peggiori nefandezze, sessismo, a favore degli stupri, qualcuno addirittura ha pensato, contro le donne brutte, lo psichiatra Raffaele Morelli, buonasera. Buonasera Giuseppe, come va? Benvenuto caro Morelli, buonasera, passalo bene. Buonasera. Molto bene, allora io voglio subito chiarire una cosa, cosa è successo innanzitutto nella trasmissione, ecco, quella sì, con la Murgia Capital eccetera, ti sei pentito? Di qualcosa? Sapevi di essere in quella trasmissione? Cosa è successo? Chiariamo subito questa cosa. No, è successo che in mattina ero stato a RTL. Sì. Dove hai detto quella frase, eccetera. Dopo ne parliamo. Esatto. Dopodiché mi ha chiamato Radio Capital, ma due o tre ore dopo per farmi mandato anche un messaggio per dire se volevo fare un'intervista sul mio ultimo libro, che è pronto soccorso per le emozioni, sì, quindi mi hanno parlato solo di quello. Sì. E quindi la trasmissione è iniziata con un intervistatore che non conoscevo, sì, che mi ha intervistato sul libro. Poi a un certo punto è subentrata la Murgia, la quale ha incominciato. Ma tu la conoscevi? Beh, no, sì, non la conoscevo assolutamente. Cioè, non sapevi chi fosse? No, forse avevo un'intervista, però beh, sì, come scrittrice, però sì che la conoscevo. Cioè, mica uno è obbligato a conoscerla per forza. Sì, sicuro. Murgia è abbastanza famoso, è un intellettuale come Morelli, sicuramente. Famosa, però io non la conoscevo. Siccome quando io ho iniziato, lei è subentrata, sì, parlando di un tema che non c'entrava niente con l'intervista. Sì. Allora a quel punto, io tra l'altro avevo anche premura, sì, a quel punto lei ha incominciato a interferire sulle parole che dicevo, a non, sì, ascoltare, così, e le ho detto... Stai zitta, ascolta, anche perché io come esperto, io faccio un lavoro dove curo la gente, no? E quindi quando ti racconto, sì, sulle cose affettive, sulle emozioni, sui sentimenti, io cerco di spiegarti, no? Sì. Ecco, ma ti sei pentito di quella frase lì, stai zitta, oppure no? Cioè... No, assolutamente no, perché l'avrei detta a chiunque avesse interferito con il mio modo di parlare, perché dovevo pentirmi. No, ma anche lì, io ti dico, ti faccio questa domanda, perché anche lì non si dice, qualcuno ha scritto, non si dice così a una donna, ma avrebbe detto pure a un uomo probabilmente. Ma certamente, mi è capitato in trasmissione di dire a un uomo, stai zitto perché non stai capendo quello che sto dicendo. Oppure fammi completare, fammi finire, sai, qui noi siamo abituati, magari noi interrompiamo, ma qualcuno, certo, dice, sì, delle cose, sono dinamiche normali, non capisco perché ogni frase debba essere timbrata come sessista se lo si dice a una donna, se lo si dice a un uomo invece che ne so, maleducazione, è una cosa incredibile. Cioè, Giuseppe, l'80% delle mail che arrivano a Rizza, a me, sì, sono di donne. Sì, sì. E basta guardare i miei video, non di adesso ma degli, sì, ultimi anni, sì, quello della festa della donna eccetera, dove io parlo della psicologia del femminile, sì, come la psicologia che può curare anche gli uomini, perché gli uomini che compiono femminicidi sono uomini che hanno perso l'identità femminile, quindi accusare me, sì, no? Sì, sì, di essere un mostro maschilista, sì, è veramente una stupidaggine. Beh, Cruciani non crede nel femminicidio, ad esempio. Io credo che molto invece che esista la specificità del femminicidio. Ma quello no, su questo ha ragione Morelli. Io parlo della violenza, esatto, che molte volte caratterizza il mondo maschile, sì, perché c'è questa violenza? Perché spesso gli uomini hanno perso la dolcezza, la tenerezza, l'affettività, l'hanno spenta, il femminile che è in loro. Vero, non dimentichiamoci mai che un uomo è XY, sì, e un uomo è tale quando completa il maschile e il femminile, sì, quando un uomo è grande, sì. Sì, Giuseppe tu lo sai meglio di me, no? Quando via via che si matura, quando incominciamo a non essere soltanto irruenti, a non abbiamo una nostra parte femminile anche dal punto di vista sessuale, sempre repressa. Io dico sempre, io ho una parte gay abbastanza pronunciata. Molto pronunciata. No, ma che ne sai tu, una parte gay abbastanza... sempre molto con i trans, le cose andare, lo dici con libertà, ma sì, va benissimo. Parenzo che mi conosce sa che queste tematiche pescano dal pensiero antico, molto pesca dall'ebraismo, la visione del femminile nell'ebraismo. No, sì, ma questo io non nulla, però nulla andiamo, questo, Raffaele, volevo approfondire, scusami, andiamo... invece la tua frase che mi interessa molto, frase... perché secondo me è stata equivocata in un aspetto, o è generalizzata. No, quando tu hai detto... La frase sotto accusa è questa. Se una donna esce di casa e gli uomini non le mettono gli occhi addosso, esatto, deve preoccuparsi, perché vuol dire che il suo femminile non è presente in primo piano. Tu puoi fare l'avvocato, il magistrato, il conduttore, puoi ottenere tutti i successi che vuoi e guadagnare tutti i soldi che vuoi, ma il femminile in una donna è la base. Ma riguarda anche l'uomo, voglio dirti, però, questo è il punto. Guarda, sono stato attaccato anche per il fatto che durante il lockdown ho fatto molti video, e ho detto alle donne che era molto importante che quando sono in casa, di non stare in ciabatte, di truccarsi, di guardarsi allo specchio, di cercare la femminilità, perché quando tu senti gli occhi del desiderio, dentro di te si formano sostanze chimiche come le endorfine che tolgono i dolori e le infiammazioni, come la serotonina che è un antidepressivo e dà il buon umore, come la dopamina. Cioè devi calcolare che il femminile rispetto all'uomo ha la grande capacità, attraverso anche gli abiti, di essere nel mondo vicino alla propria interiorità, mentre l'uomo, per l'uomo per esempio, quando l'uomo è palestrato, è tutto centrato sul corpo, sull'apparire del corpo, diventa sempre più fragile. Quando un uomo palestrato, super palestrato, che vede se stesso soltanto esternamente in crisi, una donna lo lascia, parenti Giuseppe, entra in una crisi strutturale. Allora, io però l'uomo, quello che non capisco, scusami, l'uomo che si veste bene, che si taglia la barba, la che si fa i capelli, lui parla di femminilità, che cerca, no, nel senso che cerca lo sguardo femminile, anche l'uomo, questo non capisco, anche l'uomo cerca lo sguardo femminile, si veste bene. La differenza, parenti, è sostanziale. perché noi uomini quando guardiamo una donna la guardiamo per entrare nel suo mondo, guardiamo la sua bellezza e abbiamo sempre in mente il desiderio di sì, entrare nello sì. spazio dell'altra. Sì. La donna invece, quando è in rapporto col mondo, quando ha lo sguardo addosso, mette in atto tanti meccanismi. Non c'è soltanto la bellezza, non c'è soltanto cioè tu dici che la donna a differenza dell'uomo ha bisogno di sentire lo sguardo del maschio addosso, diciamolo tutto. Giuseppe, esattamente. Ma... non so perché una cosa così semplice. Ma certo, è una cosa ovvia, cioè io non conosco una donna, vi giuro, non conosco una donna, non ho mai conosciuto una donna nella sua vita che non voglia lo sguardo, ma non stiamo parlando della bava alla bocca. Lo sguardo certo. dell'uomo, lo sguardo dell'uomo certo. addosso, perché ti fa vivere. Ma ti secondo fa... me anche tu, l'uomo vuole essere casa, guardato e compiaciuto. Quando torni a casa e non dici niente, sì, sì. lei ti dice: ma come, non ti sei accorta che sono andata alla parrucchiere? Sì, certo. Questo. Certo, certo. Le donne sono gli unici esseri del mondo che quando escono di casa sì. e non si sentono a loro agio con gli abiti, tornano indietro a cambiarsi. Sì, ma, ragazzi, ma dire una cosa del genere non è una roba per dire che le donne sono solo quello. Ma è evidente che Morelli non pensa che le donne sono no, solo ma un pezzo. Questo, io non capisco la differenza con l'uomo, perché secondo ma anche me il discorso oggi delle bambole, no? Sì, si sì. è scatenato un inferno sulle bambole, perché io ho detto che le bambine ma quando giocano con le bambole, ma quando facendo sì, la prova del diventare grandi, del diventare donne, del diventare madri, perché dentro anche gli albori del femminile sono già presenti le azioni che verranno. No, ma non è che un bambino che gioca con le bambole diventa gay, però. Ma no. Allora, noi andiamo, però... ognuno di noi è un essere unico e andiamo nella nostra direzione. Io ho parlato anche dell'omosessualità nella trasmissione con RTL, che noi abbiamo delle tendenze che si sviluppano già nell'infanzia. Sì. Allora, i bambini nell'infanzia non giocano con le bambole. Tu prova a dare un bambino di 4-5 anni. Ma quelli che giocano con le bambole, ci sono dei bambini maschi che giocano con le bambole, ad esempio. Però possono essere anche delle fasi. Sono dei bambini maschi che giocano con le bambole. Sì, però sono eccezioni. Voglio capire, lo chiedo per capire. È stato accusato Morelli. È stato accusato. Allora, la risposta della Murgia è abbastanza incredibile. Perché non gliele diamo? Ma non gliele diamo perché non gliele diamo. Un padre e una madre non danno le bambole ai loro figli maschi. Se io devo regalare qualcosa a tuo figlio, David, non è che gli regalo una bambola, gli regalo una maglietta di una squadra di calcio. No, a mio figlio gli regali una bambola, te la tira giù dalla finestra. Ma perché, sorprendente è che in queste dichiarazioni fintamente femministe sono dichiarazioni che distruggono il femminile, non certo. rispettano i codici del femminile. Ma perché c'è una differenza? Certo, c'è una differenza che non si può negare. Non è che uno è sessista se dice che c'è una differenza tra il femminile e il maschile, tra la femmina e il maschio. Ma questo è pazzesco, dai. Senti, no, ma quello che dicevamo della... io ho avuto in cura nei giorni scorsi una signora molto in gamba, sì. la quale è andata tutta nella direzione del suo lavoro e per anni ha soffocato, per esempio, sì. il fatto che le piacesse ballare, anche lo sì. sport, no? Ed è diventata nel suo campo un'ottima manager. Però cosa è successo? Che ha incominciato ad avere dei disturbi virtuali, sì. ha incominciato il femminile a mostrare una grande sofferenza. Sì. Allora io le ho fatto vedere che lei poteva diventare la più grande manager del mondo, ma doveva portarsi con sé la donna interiore. Per esempio il fatto che il desiderio l'avesse spento, il fatto che non avesse più rapporti in cui godeva, no? Tutto questo per dire che qualsiasi evoluzione tu fai, ti devi portare sempre le radici. Io una volta ho detto, scusami Raffaello, una volta ho detto, ho conosciuto una donna manager tanti anni fa che si comportava allo stesso modo. Ho detto: tu devi essere un po', ma io lo dico in senso positivo, un po' zoccola, un po' troia. Ma io, perché io utilizzo, diciamo, vogliamo sdoganare quest'ultima cosa definitivamente, dire a una persona in maniera, diciamo, non in maniera volgare, ma dire a una persona, una donna, è zoccola o troia, non è di per sé una cosa negativa, o sbaglio, Raffaele? Allora, diciamo questo, che noi come concezione culturale abbiamo una sola dea, la Madonna. Sì. I greci avevano la dea del desiderio e del piacere, Afrodite. Sì. Anzi, i greci avrebbero detto non che Giovanna si è innamorata di Giuseppe, avrebbero detto Afrodite ha unito Giovanna e Giuseppe perché godano per lei. Quindi questo è un pensiero immenso, no? Sì. Perché anche nell'amore, anche nel desiderio, anche nell'orgasmo, sì, noi siamo l'orgasmo che proviamo con l'altro, ma siamo anche un processo antico primordiale, siamo anche il piacere del mondo che scorre attraverso di noi. Questo è il pensiero che percorre, per esempio, alcuni dei più grandi studiosi del mondo interiore. Però non mi hai risposto, tu mi hai risposto in maniera aulica. Secondo te, dire a una donna, sì, che va benissimo ogni tanto qui, però dire a una donna troia utilizzare questa cosa qua, zoccola troia, è per forza un'offesa? Oppure anche quella è un'espressione di femminilità, essere troia? È un'offesa, sai perché, Giuseppe? Perché perché unilateralizza la relazione. È come se mettendo in primo piano quello, noi non vedessimo gli altri volti del femminile, perché il femminile è tanti volti. Beh, ma quello non c'è dubbio, certo. Il femminile è la tradizione, anche la donna più libera è sempre tradizionale. Senti, ma è vero che qualcuno ha paragonato la tua posizione a quelli che hanno messo le magliette per inneggiare allo stupro? Cioè qualcuno ha paragonato... L'ho scoperto, questa è una cosa che mi ha ferito e io li denuncerò. Ma chi è stato? Non ho capito, non mi ricordo. Mi sembra che sia per la verità non è che ho guardato più di tanto, mi hanno fatto vedere due siti. Cioè che il ragionamento che hai fatto tu sarebbe può essere paragonato, questo hanno scritto, e può essere paragonato a chi ha messo quelle magliette inneggiando allo stupro quei ragazzi nel Veneto? Io queste persone che hanno scritto questo, siccome è molto lontano ovviamente dalle cose che scrivo, io li denuncerò. Perché non è giusto, no? Tu non puoi offendere una persona dire una cosa così grave, no? No, ma assolutamente. Quindi, senti, io voglio capire una cosa, ma tu sei per esempio a favore della legalizzazione della prostituzione? Io sono a favore della legalizzazione. Cioè tu vorresti i bordelli, cioè come ci sono in Austria che adesso riapriranno dal 1 luglio, eccetera, o come ci sono in Svizzera che hanno già riaperto agli italiani? Cioè è una nostra battaglia storica questa cosa qui. Cioè tu non pensi che sia una follia il fatto bordelli, che noi cooperative di prostitute più che bordelli? Io sono più per le cooperative. Ma noi abbiamo questa idea, no? Che le cose che non vogliamo che vengano legalizzate debbano essere nascoste nelle strade, nei posti peggiori che possiamo vedere. È una nostra malattia sociale. Se la prostituzione c'è, possiamo dire mille volte che la possiamo cancellare, che non la vogliamo, che non ci piace. Se la prostituzione c'è, deve essere in qualche modo gestita, perché altrimenti i rischi che ci corrono sono enormi. No, perché sai, parlano, come ben sappiamo. Sì, parlano dell'offesa al corpo delle donne. Alcune dice che la prostituzione, le donne, certo, c'è la schiavitù, c'è la tratta, ci sono le donne che sono gestite da magnaccia, ma questo va combattuto, è normale. Però ci sono tante prostitute libere. Ma va combattuto, vanno arrestati. Ma certo, ma poi ci sono tante prostitute libere invece, libere. Chiaramente. E poi guadagnare col proprio corpo, secondo me, per una donna non è una cosa sbagliata di per sé. Cioè io sono uno di quelli che dice che una donna può utilizzare il suo corpo anche per guadagnare, cioè in maniera... È un diritto. Certo. È un diritto. Qual è il pericolo però, Giuseppe? Che nel momento in cui in primo piano, no? C'è l'aspetto della prostituzione, si tratta sempre di capire quali altri spazi lascio fuori. Perché, vedi, molte prostitute dicono, io ne ho avuto in cura parecchie, dicono, beh, lo faccio per un certo periodo, faccio un po' di soldi e poi smetto. Invece non smettono mai. O quelle che lo fanno liberamente. Però dobbiamo sempre aver ben chiaro che nel momento in cui noi prendiamo una direzione, una direzione di quella portata, noi possiamo attaccare altri lati. Vedi, il cervello è fatto come la hall di un albergo, con tante stanze. C'è la stanza della paura, la stanza della rabbia, la stanza della protezione. Questo vale anche però per un bidello o per un giornalista, cioè dire, per me non c'è differenza. L'utilizzare il proprio corpo, utilizzare il proprio cervello, utilizzare la propria voce, utilizzare il proprio intelletto, utilizzare, come dire, le proprie capacità per analizzare come fai tu, non è tanto diverso, secondo me. Cioè è uguale. No, vale per tutti. Esatto. Vale per tutti, però nel momento in cui tu diventi unilaterale, è come il discorso con le droghe, no? Se tu entri nel mondo della droga, alla fine ti sembra di esistere solo per la droga, ti sembra che la tua vita sia solo quella, e anche quando ti diverti, stai bene, eccetera, in qualche modo la prostituta continua a danzare dentro di te. E questo non fa bene al cervello, non fa bene alla salute, non fa bene al mondo interiore. Ciao Raffaele, un abbraccio. La Zanzara. Cari amici, buonasera, mi sono messo le cuffie, spero che mi sentiate. Se non mi sentite, datemi un segnale che capisco che c'è qualcosa che non va nella nostra diretta streaming. Benissimo, mi state sentendo. Presidente! Stanno sanificando il negozio. Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid. Una piotta e 10 così, terza marcia, non ci sono problemi. Ne parleremo stasera. Vittorio Feltri si dimette da giornalista, mamma mia che bellezza, solo che è un po' tardi per pensarci, dovevi pensarci quando scrivevi quelle cazzate, porca troia. Datti all'Ippica, vecchio rincoglionito. Perché sei capone nell'anima. sera è andato in onda uno scontro tra Luxuria e la signora Nausica della Valle, incredibile. Ho visto. A dritto Nausica, manco a dirlo. Manco a dirlo. Tu mi hai detto che perché Nausica della Valle vuole pregare per Luxuria. Non si capisce perché vuole pregare per questo Luxuria. Questo era il focus. Ma cosa diciamo. Ha fatto? Cioè, perché uno dovrebbe pregare per Luxuria? Non c'è motivo. Qual tu è il peccato? Detto, tu non sei c'ero. Stato zitto perché non siccome c'ero. Ti non pagano, c'ero. Sei stato zitto e hai assistito silente senza prendere posizione perché non ti faceva comodo e ti avrebbero stracciato il contratto. Andiamo avanti, dai. Perché cosa pregava per me? Perché io mi convertissi, perché io cambiassi? No, questo hai pensato tu, ecco perché mi hai rigettato la perché lei si è presentata dicendo allora. Dopo 44 anni ho incontrato l'amore di Dio. Ascolta. E sono ritornata alla mia formula originale, prego per te. Il concetto è questo, l'amore di Dio, quando davvero lo ricevi, quando sei distante da Dio, non le puoi capire queste cose, perché l'amore umano è egoista. L'amore di Dio, quando tu ricevi davvero il Signore, vive dentro di te, è ben diverso. Lui stesso mi ha detto, prega per Vladi. Perché non perché tu ti devi cambiare, devi levarti da questo personaggio e ritornare Vladimiro Guadagno. No, per la tua anima mi ha chiesto, perché lui vuole che tu ti salvi. Questo solo. Da che cosa mi devo salvare? Guardi, io le voglio dire una cosa. Ma tu sei cristiana? Tu credi? Io sono cattolica. Bene. Sono transessuale. Non fa niente, non è importanza. Non è importanza. Tra il diritto alla fede e la propria identità. Ascolta, ma la Bibbia la devi leggere però. La Bibbia la devi leggere. Se non conosci la parola di Dio, non sai cosa pensa Dio. Allora, cosa pensa Dio? Me lo dica lei. Te lo dico subito. Dio, ovviamente, se tu leggi nella Genesi, cosa ha creato? Tua madre e tuo padre chi erano? Un broccolo, un cavolo, una carota? O era una mamma o un papà? Un uomo o una donna? No. Chi è stato? Perché prega affinché io mi salvi? Cioè, questo voglio capire. Ma tu dovresti, come ha detto, dovrebbe ringraziare di perché grazie. Io mi devo, ma io non voglio essere salvata da lei, questa è la cosa. Ma non ti salvo io, ti salvo Dio. Voglio, io mi ma salvo da sola. Che te salvo io? Perché c'è una differenza tra l'essere devota e dall'essere invasata come lei. Un conto è essere io cristiani allora, e un conto è essere fondamentalisti. Ascolta. Gliela risparmio la preghiera perché non vorrei che a furia di pregare per me casco dalle scale. No, quindi veramente ti risparmi le sue preghiere. Speriamo di no. No, vabbè, vuol dire che le preghiere le prende come negatività. E certo, perché lei dice che mi devo salvare. Vladimir, ma che mi devo salvare? Non sto mica come negando. Come tu pensi, così senti e così parli. Esatto. In base a quello che tu pensi, senti nel cuore e parli. Dimitri da Belluno, vai. Dimitri. Io ho ascoltato la prima parte della trasmissione, è la prima volta che ascolto la vostra trasmissione, la prima volta perché mi è capitato di accendere la radio magari in macchina, di solito a quest'ora ho fatto altro. Io sono rimasto scandalizzato dal vostro linguaggio. Ma che cosa strana, Dimitri? Che cosa stranissima? Dimitri ha ragione. Sì, che cosa strana, che cosa bizzarra. Posso consigliarle una cosa, Dimitri? Scriva Codacons. Codacons Belluno. E fa una denuncia che io sono pronto anche a sottoscrivere se lei vuole. Perché da 10 anni conduco questa battaglia. Dimitri, lei arriva adesso, ma io sono 10 anni che sto combattendo questa battaglia. Ma cosa vuole, Dimitri? Non ho capito. 10 anni, no, Dimitri, io sono con lei da 10 anni, ma io sono qui da 10 anni a combattere con lei questa battaglia. Lei si sveglia adesso? Ma io sono 10 anni che sono qui. Ma cosa vuole farsi? Ma cosa vuoi, Dimitri? Non ho capito. Non fate parte delle mie priorità. Ma che cosa ti ha scandalizzato? Il vostro linguaggio, il vostro modo di scrivere. In che senso? È un modo triviale. Dimostra che non avete buoni argomenti. Ha ragione. Dimitri, ma scusi. Perché se aveste buoni argomenti, io penso che una persona che ha buoni argomenti per esempio anche di esprimerli. Sì, ma per esempio, dimmi, fammi un esempio. No, guardi, io gli esempi non glieli faccio. Ma se non li fa, di che parla allora? Se non li fa, di che parla? Porti le prove, cacci le cartuccelle, tiri fuori le cartuccelle. Ma perché? Ma crede di essere così importante? No, e allora che cazzo hai chiamato a fare allora? Per dirle che cazzo hai chiamato a fare? Che cosa cazzo hai chiamato a fare se dici che non siamo importanti? Allora non chiamare, no? Cioè, se pensi che siamo marginali, che non contiamo un cazzo, eccetera, che non siamo importanti, allora non è che puoi dire no, questa trasmissione è una trasmissione volgare. Chi se ne frega allora, no? Se non siamo importanti, se ti contraddici, amico mio, no, non ti contraddici. Vabbè, Dimitri, io sono da 10 anni a dire queste cose. Qui. Tu sei a fianco di Dimitri. Tu sei a fianco di Dimitri. Solo che Dimitri arriva adesso. Io arrivo da 10 anni ma che dico queste cose. Faccia una denuncia, Dimitri. Faccia una denuncia. Ma perché? Ma scherzate? Faccia una denunzia presso la Procura della Repubblica. Ma allora, che cazzo hai chiamato a fare? Che? per dirvi che non vi ascolterò mai più. Ma chi se ne frega? L'ultima volta, ma non sera. È vero, sarai lì attaccato a sentire le parolacce, ma a sentire lo squirting, a sentire di eiaculazioni, a sentire di eiaculazioni, a sentire di amplessi, eiaculazioni, sodomia, sesso anale, e se vuoi ti faccio l'elenco di altre cose di cui parliamo quotidianamente. Queste le parole che sta usando le descrivono perfettamente. Ma perché non ho capito? Lei fa schifo il sesso anale, non ho capito. Vabbè, io le dico questo, che le parole che lei sta usando, ma perché non ho capito? Ma lei che sa che cos'è lo squirting o no? In questo modo. Lei sa cos'è non lo squirting o non lo sa? Lo sa cos'è lo squirting o no? Non lo sa. Ma voglio capire da Dimitri che cosa, se sa cos'è lei, lo squirting. È una cosa scientifica. Io vorrei parlare di quello che sa lei, non di quello che so io. Ma lei sa che cos'è lo squirting o no? Mi risponda a questa cosa. No, non le rispondo. Le dico semplicemente che voglio parlare di quello che lei soffre di eiaculazione precoce, per esempio? Che ne so, potrebbe essere un tema. È un tema interessante, è un tema che cosa le interessa? Mi dica che cosa le interessa. È perché faccio un'analisi sociologica degli italiani per capire se soffrono di eiaculazione precoce, per esempio uno dei nostri collaboratori. Quando lei vuole possiamo farlo privatamente. No, privatamente non si fa niente, qui è tutto pubblico. Caro Parenzo, come sa Parenzo, uno dei nostri collaboratori soffre di giornata. Lei si sta guadagnando la giornata. Questo non c'è dubbio, anche lei lavorando si guadagna la giornata, però la questione è drammatica. Sì, ma io cerco di farlo in una maniera diversa da quella che sta facendo lei. Anche su questo ha ragione l'ascoltatore, 2-0 per l'ascoltatore. Ma perché? Ha ragione l'ascoltatore. Se dipendesse da me, io i soldi per la pubblicità nella sua trasmissione non li metterei. E invece li mettono. E invece li mettono, hai capito o no che li mettono, Dimitri? E invece li mettono. Questa è la differenza. Ma Dimitri, guardi il paradosso. Ma guardi, Dimitri, la gente che mette i soldi. Dimitri, mi dia retta, senta l'impazzimento generale. Io che lavoro qui da 10 anni sostengo le sue stesse cose. Pensi all'impazzimento. Cioè io da 10 anni le ripeto, io ho cercato di farmi una telefonata per essere gentile. Ma lei non è gentile, lei è bipolare. Posso dire una cosa? Sembra bipolare, con tutto il rispetto del bipolarismo, che è una malattia grave. Cioè lei è uno che dice delle cose assurde. Perché scusa, lei dice questa trasmissione non è importante, lei non pensi di essere così importante. Dopodiché chiama, è una contraddizione. Se uno pensa di non essere importante, su questo ha ragione. Forse non mi sono spiegato bene. Lei è 10 minuti che ha il telefono con noi e me lo faccia dire. Oltre a farci il puntiglio, a romperci i coglioni, che va magnificamente bene, però lei è 10 minuti che perde il tempo con noi. Allora io che sono dalla parte sono sua, cioè io sono per chiudere la trasmissione. Perché hai chiamato tu? Non mi faccia incazzare pure a me, Dimitri. Io le stavo dando ragione, adesso mi fa incazzare pure a me. Chiama, lei chiama, dice che vuol chiudere, dice che le fa schifo, perde 10 minuti in questa trasmissione. Dimitri, lei è pazzo, ma se lo faccio dire. Lei si sta sbagliando. Vabbè, Dimitri, perché? Voglio capire perché questa trasmissione dovrebbe chiudere. Non ho capito. Spiegami. Io non l'ho detto che deve chiudere. Non l'ho mica perché detto non bisogna. Se, non se uno non mette pubblicità, no, se almeno metto, chiudere, deve almeno chiudere. Se uno non mette pubblicità, chiude una trasmissione, no? Se la gente non mette pubblicità. Dunque, tu hai detto una cosa che porta alla chiusura, amico mio. Guardi, dovrebbe farlo a sue spese. Lei dovrebbe andare a lavorare, guadagnarsi. Ma questo io lavoro così. Io lavoro così, parlando delle sue disfunzioni sessuali. Parlando anche delle sue disfunzioni. Ma lei può parlare di quello che crede. Ma posso parlare della sua posso parlare del fatto che lei soffre di eiaculazione precoce? Ma non è vero, sì, l'ho letto. Se pensa di avere qualche motivo generale anche di queste cose qui. Lei sa che cos'è lo squirting, per esempio? Le ripeto ancora una volta. Lei mi sta portando su un terreno che ma non lo è sa mio. O no? Lo sa o no? Se non lo sa, attraverso questa trasmissione lo riesce a sapere, viene a conoscenza di cose che lei non sa. Prima e l'ultima volta che ascolto la sua trasmissione. Ma questo l'abbiamo già detto. Hai ragione. Ma di che cosa mi sto sbagliando? Ma su che cosa mi sto sbagliando? Su cosa? Ma è impazzito completamente questo qua. Arrivederci. Lei si sta sbagliando. Ma mi ha rotto i coglioni. Ciao. La zanzara. Ciao, sono Lippa da Padulle e anche io pratico l'astinenza sessuale. Woo! I love my radio. La zanzara. Di Conte, perché l'unico bugiardo è lui con la sua compagnia bella che è Di Maio, Zingaretti, perché al governo ci sono loro. Tabi! Tabi! Le dico che se dipendesse da me, io i soldi per la pubblicità nella sua trasmissione non li metterei. E poi paga sempre Pantalone. Diamonds and guns, diamonds and guns. Lei si sta sbagliando. Yuri da Brescia, intanto, Yuri da Brescia. Yuri da Brescia, poi collegamento con Mondragone. Mondragone, dove c'è un personaggio incredibile. Mondragone incredibile. Andrebbe analizzato molto bene, andrebbero sì. capite le contraddizioni sociali che ci sono in quel territorio perduto. Scusi, della Freccero, Repubblica. Ma lei che cosa farebbe? Una grande diretta con l'uomo che tira la sedia dal balcone? Naturalmente no. C'è stata una grande sgrammaticatura. Questo in episodio, naturalmente, è avvenuto al pomeriggio. Sarebbe dovuto avvenire lunedì. Pomeriggio, lunedì prossimo, naturalmente. Perché c'entra? Perché alle 20:34 inizia in onda, naturalmente. Allora... un episodio come questo sarebbe stato naturalmente da raccontare in diretta. Dai, questo rivolto che si fanno alla mattina, ma la gente la mattina lavora. Non vede la televisione. Non vede la televisione. Queste rivolte vanno fatte in prime time. Questo va detto, naturalmente. Allora ho detto alla RAI, naturalmente, sì. Voi non capite nulla di televisione, voi no, siete nulla. La radio. Sì, questo è vero, mezzo sì. morto dell'Ottocento, dai. Allora... ancora con la radio, la parola. Fa schifo, dai, ma non, ma non ci crede più nessuno, non fa ascolto allora... la parola. Naturalmente ho detto alla RAI, quando ci sono le rivolte vanno fatte la mattina. Mandate lì i vostri autori, naturalmente. No, le rivolte della mattina, naturalmente sì. farò ascolto. Mandate lì gli autori per fare le rivolte la sera. Ah, quindi certo. io consiglio ovviamente agli amici della RAI di mandare immediatamente lì a Mondragone degli autori, dei registi, sì, naturalmente. Sì, che credo, e cominciare a briffare gli ospiti. Dice, come briffare? Sono arrivato della gente che ti briffa. Il bulgaro, naturalmente, spiegare che va tirato prima del nero di Canale 5, cioè naturalmente anche cioè, la controprogrammazione sedia, è importante. La naturalmente va... la sedia va buttata naturalmente quando Canale 5 è in pubblicità. Ma come si fa a non capire? Tu hai Canale 5 in pubblicità e tu dall'altra parte devi dire butta la sedia ora, così il pubblico che scanala da Canale 5 a Rai 2, naturalmente, e rimane lì. Poi, ma io dico, ma come si fa? Si chiama controprogrammazione, banale. Cioè bisognava mandare delle persone a Mondragone per dire autori, per autori, dire autori. Sì, scusi. L'ho proposto naturalmente ai direttori delle reti. Non mi hanno ricevuto naturalmente. Non capisco perché lì perché. Sarebbe stato da mandare degli autori per dire al bulgaro, spiegare l'orario, perché si chiama controprogrammazione. La gente scanala ormai quando c'è quello che tecnicamente si chiama il nero, che non è un uomo di colore, bensì no, certo, la pubblicità, certo. Quando Canale 5 è in pubblicità la gente automaticamente scanala, sì. Viene su Rai 2, trova quello che tira la sedia e tac che fa l'ascolto, dai che è costruito così, costruito milioni di scalette, non capisco, si chiama servizio pubblico, vero, naturalmente, vero, dai, Yuri da non sanno fare la televisione, no, naturalmente, quella è sicura, dai, incredibile, hanno mandato nel pomeriggio il bulgaro, ma è una roba da pazzi, Yuri da Brescia, vai. Ciao, dimmi. Ciao, mi sentite? Sì, sì, vai. Dimmi. Allora, innanzitutto pregherei Parenzo di non abusare della parola intellettuale quando parla della murgia, perché è un insulto agli intellettuali veri, innanzitutto. Vabbè. Ok, prima cosa. Perché poi, ascolta, la murgia ha mai venduto un giocattolo a un bambino? Perché io li vendo i giocattoli di bambino. Il maschietto guarda le macchinine e la femminuccia guarda le bambole, ma questa è una cosa... normalissima. Sì, sarebbe come, ragazzi, se io dicessi, sarebbe come se io dicessi, ma la murgia non fa una dieta perché non gli danno il foglio in mano? La stessa identica logica. Che cazzo vuol dire? Non gioca con la macchinina, la femminuccia perché non gliela dai? Siamo al ridicolo. Dire che non diamo le bambole ai maschi perché non gliele vogliamo dire, che i maschi non giocano con le bambole perché non gliele diamo, sarebbe da rispondergli: te credo che non gliele diamo, ma non è perché siamo contro gli omosessuali o contro un maschio che vuole giocare con la bambola. Perché se io vado a casa di Parenzo e mi presento con una Barbie a suo figlio Nathan, come diavolo si chiama? Ma per dire, poveraccio, no, io lo adoro assolutamente. Come diavolo, Nathan, ma come ti permetti, come diavolo si chiama? No, ma per dire, dici? No. Suo figlio come diavolo si chiama? Ma come ti se permetti? Se vengo a casa tua e regalo una Barbie a tuo figlio Nathan, giustamente tu mi guardi male. Ma no, io e lui, fare non è abituato, lui la ma no, butta lui... al cesso. Ma anche tu mi dici, ma che cazzo gli hai regalato? Ma no, ti dico, è un regalo inopportuno, perché è un regalo che non apprezzerebbe. Ciao, tutto qua. Yuri, sì, vabbè, ti incazzeresti. Allora, questo signore si chiama Rufino, abbiamo trovato il numero di telefono. Un anno fa, uno dei capi della rivolta lì a Mondragone, un anno fa un bulgaro ha tentato di violentare mia figlia, gli ho dato 5 coltellate. Mamma e ora mia, sono sotto ragazzi, processo credo. Per tentato omicidio. Non mi pento, i figli non si toccano e qui vabbè, denunciare certo, è inutile. Sì? Sì, Rufino? Sì, con chi parlo? Buonasera, Radio 24, come stai? Salve, salve, salve, tutto salve. Bene. Senti, volevo capire com'era la situazione lì a Mondragone, innanzitutto. Cioè, critica e preoccupante, critica e preoccupante perché comunque sì. Quello che vediamo... Ma di chi è la colpa fondamentalmente? Cioè, chi è responsabile di questa situazione? Sicuramente noi mondragonesi, perché noi non ci siamo fatti rispettare dal primo momento. I mondragonesi hanno calato le braghe subito, dici questo? Subito, subito. Se noi magari mettevamo subito dei paletti, sì, inizialmente, diciamo, facendoci rispettare... Andrebbero cacciati da lì, cioè andrebbero cacciati. Ma sicuramente, sicuramente, perché se non hanno... Allora, attenzione, voglio comunque ribadire che non si... parte dal fatto di essere razzisti, anche perché ho tantissimi amici di varie nazionalità. Ho tantissimi amici bulgari, ma quando mai è successo? No, però voglio capire una cosa, voglio capire una cosa, cioè tu non sei razzista. Uno ha tantissimi amici bulgari, come quello che dice, ho tanti amici gay. Tu però... hai amici bulgari? Ho anche amici gay, cioè che non vuol dire che uno sia gay, eh. No, per carità, assolutamente. E tu non sei razzista nei confronti dei bulgari, però sono un problema per Mondragone. Che fanno sti bulgari? Cosa combinano? Di tutto, di più. Cioè, di tipo, tutto, fammi quindi, capire. Allora, partiamo dalla cosa più banale. Sì. Bere in qualsiasi posto dove si trovano, bevono e lanciano le bottiglie spaccandole per strada. Ma questo è gravissimo. Non credo che sia. Questo è molto grave, sì, molto grave, sì. Perché poi se aggiungiamo fanno i bisogni in qualsiasi posto, sì, davanti ai centri commerciali, supermercati, sì, davanti alle donne, davanti ai bambini, davanti a tutti, per poi aggiungere che io personalmente, Mario Rufino, ho un caso mio personale. Sì, mi hanno detto che hanno tentato praticamente di violentare, uno di questi qua ha tentato di violentare tua figlia, o sbaglio? Esattamente, esattamente. Ma perché non hai denunciato? Erano le 5:30 del pomeriggio, allora, da genitore ho sbagliato, mi prendo le mie responsabilità, non ho denunciato subito, mi sono fatto un po' legge da solo. Cioè gli dato, che hai fatto? Dimmi la verità. Mi è partita subito la vena, diciamo, sono partito per pestarlo. Qualcuno continua ad accusarmi di coltellate, non ci sono state armi però da taglio. Però sei sotto processo. Sì, esattamente. Per tentato omicidio, se non sbaglio, no? Allora, al momento ho percosse e lesioni. Mia figlia, questa persona, ha cercato di toccarla. Ecco, ma ha cercato gli ha messo le mani nei leggings alle 5:30 del pomeriggio fuori un negozio. Non hai molta fiducia nella giustizia, diciamo la verità. E ti sei scagliato contro questo. Ti sei scagliato contro questo qua. E adesso sotto processo. Sì. Allora, siamo... Cioè, le coltellate le hai date o no? Scusami, le coltellate... No, c'è stata una colluttazione dove io ho preso un bastone di ferro, per intenderci una mazza dell'ombrellone, di cui in mezzo al pattume, cioè era lì che nella colluttazione ci sono stati 3 tagli, c'è la magistratura che sta... Vabbè, vedremo come andrà a finire. Però voglio dire una cosa, tu sei uno dei protagonisti di questa ribellione, diciamo, dei mondragonesi, no? Dei mondragonesi. Sì. Ecco, voglio dire, questi bulgari rom, adesso non so se sono di etnia rom, eccetera, cioè sono loro che hanno portato sto Covid o no? Mentre noi eravamo rinchiusi in casa nel periodo di quarantena, invece questi qua hanno fatto il cazzo che volevano, dici tu. Esattamente, e lo possiamo dimostrare. Secondo te il sindaco, eccetera, sono stati troppo teneri con questi bulgari? Mi sembra di capire che la tua posizione è questa, no? Sono stati troppo teneri fino adesso, il sindaco e gli altri. Però scusi, gentile signore, che peraltro mi pare abbia dei procedimenti disciplinari penali in corso. Vabbè, vedremo. Quindi stiamo accusando i bulgari. Mai avuto problemi con la giustizia? No, però per prima, ora lei stesso, prima d'accordo, lei stesso ha detto che oggi c'è. Cioè, benissimo. Tu come avresti reagito con tua figlia? Non c'è dubbio. Se uno dovette la mano. Mi sarei difeso, senza ombra di dubbio. Però torniamo alla questione di fondo. Io all'inizio di questa pandemia dissi che questi luoghi, questi territori perduti della Repubblica, dove lavorano questi braccianti, erano luoghi dove bisognava fare molta attenzione. Quindi adesso non possiamo riversare su di loro, su questi invisibili, la colpa di essere anche degli untori. Ma questi che fanno, questi bulgari? Questo è il tema, amici. Amico Rufino, che fanno questi qua? Lavorano tutti oppure... Vi fanno comodo quando raccolgono la frutta e la verdura in nero, per conto di padroni, per conto di padroni italiani. Ma che fanno? E poi diventano per voi degli untori. Ma che fanno? Sono d'accordissimo con lei. La maggior parte, il 90% di queste persone che stiamo parlando sono le donne che vanno al lavoro, ma gli uomini continuano a stare per strada bevendo e... Ma sono pericolosi? Sono pericolosi? Credo di sì, perché ci sono stati... Allora, ci sono stati altri episodi di pestaggio loro contro altre persone residenti del posto. Noi non sappiamo queste persone come l'hai individuato? Ok, io l'ho individuato al momento, ma non lo potevo comunque sicuramente seguire e capire... Secondo me la mia prima reazione è stata quello di pestarlo. Sì, non sono pentito di averlo fatto, lo rifarei altre mille volte, perché donne, bambine, disabili e anziani, soprattutto i propri figli, non si toccano. Però, amico mio Rufino, di nazionalità straniera, posso dirti una cosa, se tutti quanti reagissero così, per carità, il tentato stupro, la violenza è una cosa orribile, eccetera, se tutti reagissero come lei con la legge del taglione, saremo alla fine dello stato di diritto, alla fine dello stato di diritto. Ma lui dice che vanno tagliati i coglioni, lui dice una cosa folle, secondo te terribile. Vanno castrati questi qua, vanno castrati. Ma l'altra persona, la persona, il signore che sta parlando, gli posso fare una domanda? La persona che sta parlando è Parenzo, intanto è Parenzo. Okay. Fai la domanda. Di conoscerla, è piacere mio di conoscerla. Non posso dire altrettanto. Ha figli? Hai figli? Sì. Ne ho tre, tra poco quattro. Gli faccio i miei auguri e spero che non gli succeda mai una cosa del genere. Ma ci mancherebbe altro, certo. Credo che anche lei farebbe la stessa cosa, visto che è genitore. Ma che gli hai fatto alla fine a questo qua? Come l'hai conciato questo qua, quando l'hai pestato? L'ho pestato e io in quel momento sarei stato anche in grado di ammazzarlo. Se l'avessi ammazzato non ti saresti pentito, diciamo. Forse, insomma. No, lo continuerò a dire. Cosa vuol dire lo continuerò a dire? Ma se questo è uno stato bestiale, ho capito, ma no, è lo stato di natura, non è lo stato di diritto, è lo stato di natura, si chiama. E l'altro conduttore radiofonico che tu pensi che tanto questo qua se la sarebbe cavata in qualche modo? Cioè avrebbe avuto pochi... Ma se l'è cavata, ma come se l'è cavata tutt'oggi, tutto al momento, perché questa persona è scomparsa, non si è mai presentata in tribunale, in 8 udienze di tribunale di cui io sto pagando un avvocato, attenzione. Mi sembra di capire che non finisce qui la storia a Mondragone, io credo proprio di no. Lunedì, martedì ci arriviamo, possiamo vedere scene di nuovo con gente che lancia le sedie dalla finestra. Spero di no, spero che ci si stringa la mano con l'altra persona, non funziona, perché non potrebbe funzionare. È auspicabile loro che ciò hanno voglia di integrarsi, hanno voglia di rispettare le regole. Secondo te no, però sì, però non funziona, se hanno voglia di fare di... Ciao Rufino, grazie. Grazie a voi, ciao. Buona giornata. Non funziona, grazie, la pace non funziona, la pace. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading. Vi presento La Zanzara. A mio discapito, capito? Cosa? Comunque volevo dire che, cioè, il porno si aggira in un secondo, VPN, tac, neanche 3 euro al mese, anche meno, e navighi da qualunque parte del mondo, e quindi porno alla grande, anche dalla Cina che censura tutto, proprio ce ne fottiamo, porno. Cruciani, mi dispiace, io sono sempre, quasi sempre d'accordo con te, mi fai sbudellare dai risate, ma a me i piedi fanno cagare, io li amputerei tutti, fanno cagare, scarpe chiuse tutta la vita, ma piedacci di fuori, per carità. Sì. Mi sono rotto i coglioni, io da famocca a chi va morto, bastardi! Stamattina, che succede? Ti vedo con l'anello al naso, che succede? Cosa essere? Io nero! Ah, tu non essere nero! No! Così, e ti vedo bianco! E io scambiata, mucchina, questo mo! Ah! Non devo andare a bianco! Ah, la mucchina! Ma è nero! Ah. Tengo pure un culo nero, ui! Ah, ma ho capito, perché molti devono dare le casse, ti devono dare. A noi nero, casa, soldi, macchine, patente, tutto libero, noi nero. Abbiamo il paese del balocco qua in Italia. Allora, da segnalare, caro Parenzo, che dal professore di Foggia è andato in visita, credo l'altro giorno in Puglia, il signor Matteo Salvini. Dal professore di Foggia al bar veramente, del professore. Eh? Ti giuro, al bar. Puoi mandare le immagini lunedì tranquillamente. Dal bar no, del professore. Non ti preoccupare. Dal non bar preoccupare. Del professore di Foggia è andato il signor Salvini. È andato perché qualcuno gli avrà detto che è un personaggio popolare del web e sarà andato lì a. E quindi in lui, visita. Giustamente, essendo un politico attento a questo, vada al personaggio popolare ma del web. Ma abbiamo in collegamento un grande personaggio, uno degli eroi di questa giornata, che è Fausto Ravaglia ed è il bagnino di Riccione 135-136. Buonasera, caro Ravaglia, buonasera. Buonasera a tutti voi, io sono qui in riva al mare che sto aspettando di mangiare. Beato buonasera, lei, noi stiamo Presidente. Qui, uno a Roma, buonasera. L'altro a Milano a romperci i coglioni. No, ci stiamo divertendo moltissimo anche noi. Scusi, Ravaglia. Ma si mangia lì il crescione oppure no? Ma che crescione? Noi mangiamo il cassone. Il cassone la, che la piada con lo squacquerone. Esatto. No, ma dico il crescione, dove si mangia invece? A Milano Marittima, ma che cazzo il crescione. Ma che ne sa, Ravaglia? Non ma come? Lo sa. La crescia, che... Ascolta, la crescia, il crescione è più sul marchigiano, la crescia. Risolta questa cosa mangiamo, di cui non me ne può fregare di meno. Ma io ho chiamato Ravaglia per un'altra cosa, perché ho trovato straordinaria questa cosa del bonus che andrebbe introdotta nei matrimoni. Cioè dire, Il signor Ravaglia, bagnino, proprietario di un bagno importante a Riccione, ha un bonus dalla moglie di 10, sostanzialmente 10 tradimenti all'anno. Diciamo così. Non sono tradimenti, sono scappatelle. Perché vabbè, scappatelle. Fine, giusto. Ritorni sempre all'ovile, dai. Scappatelle. Adesso, ma come è nata questa cosa qui? Cioè, tua moglie dice, col passare degli anni, ha detto, senti, c'è anche un motivo commerciale, Ravaglia? Ma soprattutto, io facevo il bagnino prima di conoscere mia moglie e eravamo amici così, e allora sa il vizietto del bagnino, adesso per evitare discussioni di qua di là, giusto, siamo andati dal notaio, è tutta una roba notarile, come l'hai scritto? Lei ha sottoscritto che dovevo, però ha messo delle clausole solo nel bagno, le scappatelle, per incrementare il fatturato della famiglia, no? No, ma aspetta, fammi capire, ma adesso veramente io non so se tu stai scherzando o no, perché io l'ho detto prima perché dovrebbe essere fatto così. Cioè voi quando vi siete sposati avete messo per iscritto no, da qualche... Adesso... No, ma stai scherzando? No, sto scherzando. Ah, no, ma sarebbe straordinario invece fosse così. Cioè fosse così, sarebbe incredibile. Uno va dal notaio e dice, senti, no, non so se vale o non vale, ma al massimo ti puoi fare 10 trombate, diciamo, 10... Oh no, Ravaglia, non l'hai fatto, vabbè. Comunque, vabbè. Moglie te ne concede, e perché solamente nel bagno? È perché poi accontentando le clienti, quelle tornano l'anno dopo con l'amica e così cresce il budget familiare dell'introito. Ah, no? tu dici il motivo commerciale che tu ti fai. Certo. Tu devi sapere, Zanza, che è stato il nostro capospecifide ed è un maestro, lui ha incrementato tutta la Riviera Romagnola, le svedesi le accontentava qui al mare e poi dopo l'anno dopo ritornavano. Dunque tu nel tuo piccolo hai fatto praticamente la stessa cosa, col consenso di tua moglie, questa è la cosa fondamentale. No, l'ho fatto prima e poi dopo col consenso, non ho potuto interrompere l'attività. Non c'è da dubbio. Bagnino, no. E alla fine di queste 10, quanti bonus hai speso realmente? Cioè, quante te ne facevi realmente all'anno? Quante te ne fai ancora all'anno? Non so quanti anni hai, Ravaglia. Ascolta, io ce n'ho 66, però dunque, mi mantengo ancora bene. Dunque, ancora riesci, ancora te ne fai, alcuni di questi bonus te li spendi. Però sto perdendo un po' i colpi, l'anno scorso 7... Ne ho fatte 7 e gli ho detto a mia moglie, quelle 3 me le lasci per il prossimo anno? E lei mi ha detto, no, scadono come lo yogurt e niente da fare, quest'altro anno si riparte. No, ma ragazzi, riesco a capire, comunque... cioè lei ogni anno, questo non mi era chiaro, cioè lei ogni anno rinegozia... un bonus dalla moglie di 10, al massimo puoi fartene 10. Ma quindi in una vita ogni anno 10? Beh sì, però non ha usufruito di tutto il bonus. Da sposato 10, da sposato, perché sì. prima... prima si superava abbondantemente le 30, le 40. Beh, amico mio, siamo al top assoluto. Dunque, allora, Ravaglia, l'ultima che hai pizzicato, quando è stata? Perché adesso c'è un po' di problema col Covid, naturalmente. Cioè, le straniere... No, ma ascolta, il Covid è così in pubblico. Poi quando le porti in cabina, il Covid sparisce lì. In cabina non può entrare, perché è Covid free, in cabina è Covid free. Dunque, anche in queste... avete ripreso un po' da giugno, eccetera, anche in questo periodo? No, sei sentito un pochettino lì il video e abbiamo perso il budget delle straniere, perché straniere tre o quattro in bassa stagione le battezzavamo, no? Noi non siamo religiosi, però il battesimo straniere... Scusami, voglio capire, tu sei abbastanza dotato, Fausto, oppure no? Cioè, oppure sei normale? No, normo dotato. Normo dotato, non è importante farlo funzionare bene, insomma, questa è la cosa fondamentale. Comunque, ragazzi, la cosa del bonus non è una cazzata, adesso Ravaglia è tutto vero quello che ha detto, tranne il notaio, però andrebbe certificata. Cioè, se ci fosse una cosa di questo tipo, per esempio, cioè se tra marito e moglie ci fosse questa cosa della certificazione, gli affari, per esempio, di Roy Gigolò, che abbiamo in collegamento qui, caro Roy, buonasera. Ciao Roy. Ciao a tutti. Allora, ho in mente un bonus anche per la moglie del bagnino, perché che facciamo qui? Il bagnino se ne fa tutte, ma la moglie poi... La moglie incassa, lei pensa all'economia, all'economia familiare. Però questo è maschilismo puro. Questo è maschilismo. Sopra. Che maschilismo? Qui si produce per la famiglia. No? Ho capito, Fausto, però... è un bonus anche per me, insomma, anche le donne... Cioè tu, per esempio, potresti sopportare il fatto che tua moglie, che ne so, va con un gigolò, va con qualcuno, Fausto, oppure lo puoi fare solo tu questa roba qua? C'è un proverbio in Romagna che si dice si consuma un velo di cipolla ogni 30 anni, perciò problemi non ce ne sono. Dunque, va benissimo, cioè, anche se tua moglie si facesse trombare da qualcuno, per te non ci sarebbe problema. Adesso mettiamo i puntini sugli adesso andiamo calmi, tu quello andiamo fai calmi. Però noi siamo ancora vecchia generazione, ho capito, allora vedi che ho capito bene, la moglie non può fare un cazzo, mentre tu per motivi, diciamo, di business puoi timbrare e battezzare chi vuoi. Vabbè, Roy, io voglio capire una cosa, hai ripreso, Roy, o no l'attività? Ho ripreso la grande, tra l'altro l'ho ripreso da giugno, ma il primo non ho rispettato le regole, sono andato subito fuori regione, però adesso non lo diciamo, quindi ho iniziato a lavorare da subito, perché poi le donne erano abbastanza affamate in questo periodo. Ecco, le mogli sono abbastanza, le mogli che tu frequenti sono abbastanza infogliate in questo periodo, non hanno ripreso con grande spirito? Perché due mesi con il marito sono diventate pace, non resistevano più, perché poi non trombavano più, perché il Covid ha dato anche un annientamento alla libido. Un po' di tutti, no? Perché durante il Covid... Così dicono, poi in realtà poi ci siamo sfogati dopo. Adesso è pieno di richieste, non sono mie, ma appunto cloud, molti ragazzi già hanno iniziato la grande, quindi... questo è importante, okay. Notare che tu hai ripreso, sono contento per te naturalmente che hai ripreso l'attività, perché dopo due mesi di stop eccetera i soldi possono anche mancare, cosa che voglio capire è un'altra, tu sei un amante del pelo oppure no? Perché in questo potresti incontrarti con Ravaglia, lei è un amante del pelo delle donne, Ravaglia? Ah, certamente, gli anni 70 andava di moda il pelo. E tu anche adesso ami il pelo, ami le donne col pelo, Ravaglia, no? Giusto? Certo che il pelo è il top, pelo è il top assoluto. Roy invece, che è di nuovo... Personalmente no, anche perché quando faccio il cunnilingus spesso devo sputacchiare i peli e mi dà molto fastidio, perché poi si infilano tipo filo interdentale. Sì, quello è un problema, però la liscia, diciamo, la patata, la figa liscia, tutta liscia, eccetera. Però anche il fatto... Scusa, dimmi, Ravaglia, dimmi. Lo sputacchi va bene, ma se va in gola è un casino, Quello è vero, Ravaglia. Posso dirti la verità, che io in realtà amo anche queste situazioni qua un po' bizzarre, cioè quelle in cui resta qualcosa dentro, chissà che dirà l'ascoltatore di prima, se ancora in ascolto, cioè quello là che dice che facciamo schifo, eccetera. Se restano delle cose dentro la bocca, Ravaglia, e a me piace, io sono il Gigolò lo fa per lavoro, dunque per lui è un impiccio. Però non a me c'è se problema. Mi se non mi c'è resta... problema, perché si comincia a tossire, è lì il brutto. Adesso per il resto tossire in quelle situazioni perdi il fascino, il momento buono. Ma no? Sì, però va bene anche quello, sentire il pelo qua significa che c'è vita. Comunque è una cosa vecchia, una cosa d'annunziana, era D'Annunzio che faceva. Ma tu quante ne incontri in percentuale? Quante ne incontri, Roy, col pelo o senza pelo? Siccome non puoi scegliere. Allora, ti posso dire che dopo i 40 rischi di trovare il pelo. Prima è difficile. Prima è molto prima difficile. È difficile e sotto le ascelle? Sotto le ascelle? Le ascelle, adesso ultimamente ho trovato una ragazza di 22 anni che aveva i peli nelle ascelle. Quindi c'è questo ritorno anche al pelo. E che hai fatto? nulla, ho provato a dirle, guarda, sarebbe il caso che togliessi, però lei no, ha detto assolutamente no, questo è il mio punto forte, quindi... Ma ha ragione lei, ma sì, ma se una donna si sente bene così, scusi Ravaglia, lei piace anche il pelo sotto la scella, Ravaglia? Pure, tutto il servizio completo. Puzza, dai, lì no. Meno male. E il cunnilingus lei lo ama, sì, immagino di sì, vecchia generazione, come si fa a non amare il cunnilingus? Roy Gigolò è un esperto di cunnilingus. Immagino che... anche Parenzo, Gottardo anche. Io per molto meno ho querelato, per molto molto meno. Ciao ragazzi, italiani! Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Lei si sta sbagliando.